guardo le stelle, non ci sei. Con uno sguardo morirei. In questa notte vorrei stringerti per conservarti dentro me. Guardo la luna e dove sei? Dentro pensieri e sogni. Finire mai.